fate troppo i democratici. L'allenatore della Juventus quest'anno si chiama Cristiano Ronaldo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Batte Cristiano Ronaldo! Cristiano, remate Cristiano, gol! Que bonito! Cristiano Ronaldo! Quem marca um, marca dois e quem sabe? Sperava sicuramente in una giornata migliore Nicolò Zaniolo. L'esito di esami strumentali è stato chiarissimo, visto che c'era anche il professor Mariani. Rottura del crociato del ginocchio sinistro. Sandro! Sandro! Sandro! Sandro! Sandro! Sandro! Un saluto a me, Stefano! Sandro, un attimo, Sandro, qua! Ancora Sandro! Forza Milan! Grazie! Ciao, grazie! When we look at some of the elements that are going to be macroeconomic in this context, we are looking at top revenue decrease of approximately 4 billion euros in the next 2 years, and according to FIFA, 90% of those top line losses will be borne by clubs. Eccoci qui ragazzi, 14.07, siamo in onda fino alle 15, quindi vi do subito i contatti per entrare nel nostro mondo, il mondo di tutti i convocati. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, prenotatevi già adesso, tema libero, soprattutto oggi. Poi 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Ciao Pier. Ciao. Allora, abbiamo messo insieme un po' di voci delle ultime ore. Hai visto che ce n'è nel Portogallo uno bravino, che fa gol ed è, sì, già infatti, carico, infatti, è pronto. Volevo fare il mio radio tweet. Sembrava ci fossimo messi d'accordo, invece no. No, come in un confessionale, perché l'altro giorno, commentando Portogallo-Croazia, e Giancarlo Camolese può essere testimone, mi sono lasciato andare a un pensiero impuro, un pensiero del quale chiedo ovviamente umilmente scusa. Cioè, c'era Ronaldo in panchina, anzi in tribuna, scusami, in tribuna a guardare l'esplosione del Portogallo di Diogo Jota, di João Félix, di Bernardo Silva, e per un attimo ho pensato, guarda che esplosione di talento con l'assenza di Cristiano Ronaldo. Non ho mai vacillato, non ho mai pensato Ma Ronaldo... lui ti ha sentito. No, vabbè. Ti ha letto nel pensiero. Sai, io poi la vita di un telecronista è fatta anche di situazioni. Io ho fatto, per esempio, Spagna-Portogallo, ho fatto la telecronaca di Spagna-Portogallo 3-3 con la tripletta di Ronaldo nell'esordio del mondiale, oppure la semifinale di Nations League con un'altra tripletta. Cioè, io Ronaldo in nazionale l'ho commentato spesso, la vittoria di Lituania con 4 gol. Quindi, voglio dire, cioè, al di là del fatto che poi le partite cerchiamo di guardarle tutte, anche quelle di cui non facciamo la telecronaca, però insomma, mi è capitato per presa diretta di seguirlo mille volte, di vedere che il nazionale è se possibile ancora più dominante che nel club. Però l'altro giorno ho pensato, col primo gol di Diogo Jota, ho pensato al primo gol di João Félix in nazionale, vedi, sta nascendo una nuova era. Ecco, mi sbagliavo, perché Ronaldo è tornato e ha fatto doppietta e è arrivato a 101, ma in realtà non mi sbagliavo, lo sapevo, insomma. Però il talento di questa squadra è incredibile, sì, è incredibile. Sì. Un po' la Francia, c'è il Portogallo per me. Anche la fame di Ronaldo, incredibile. Saluto Ivan Zazzarone, ciao Ivan. Ma ciao. Ciao Pier, hai pensato una cazzata . E capita a tutti, voglio dire. Non è che devi giustificarti, su. No, una volta però, ho detto che Calmi ti assomigliava a Lewandowski, quindi voglio dire. Sì, scherzi, ma guarda che ognuno di noi ha l'armadio pieno di cazzate dette, pensate, scritte. Non vorrei che passasse alla storia questa roba qua. per un attimo ho detto ammazza come gioca bene il Portogallo. Pure hai detto giusto, hai visto i giovani, grazie a Dio. Ogni tanto c'è qualche giovane, qualche squadra che, come l'Italia, peraltro. Adesso ne parliamo, Ivan. Diogo Jota e João Félix sono Félix già vale 120 milioni, sì. Ma Diogo Jota è un giocatore incredibile. Adesso ne parliamo, però Ivan, mi viene in mente che in queste settimane qualcuno anche in Italia ha pensato se fosse il caso di giocare meglio o peggio con o senza Ronaldo, perché c'è stato per un istante il dibattito di dire se la nuova Juve dovesse partire senza di lui per fondare un nuovo ciclo. Sì, c'è stato, credo che corrisponda anche al fatto che Ronaldo ha un costo elevatissimo, siamo al terzo anno, si è pensato anche che lui potesse in qualche modo andarsene, qualcuno ha scritto anche di Dybala, che Dybala non mi sembra che se quest'anno sia mai stato messo in discussione, però poi si è rimasti lì, ecco, si è rimasti a Ronaldo, Dybala, adesso questa attesa, questa attesa non più spasmodica ma finente del centravanti, perché uno deve fare l'esame italiano, è meraviglioso. Sì, poi ieri girava quel video che lo dimostrava non proprio in piena facciamo forma. Facciamo un piccolo test, dai, magari ci sta ascoltando. Facciamo una cosa semplice, quali sono le province della Toscana? È una cosa semplice. Province roba... della Toscana, ma chi lo stai chiedendo? Magari Suarez ci sta ascoltando, no? Luca, Pisa, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Prato, lo sappiamo. Io ti dico quello dell'Emilia, se vuoi, molto molto facilmente. No, a parte questo, adesso è tutto bloccato, però ragazzi, il 19 si comincia. Quindi siamo al 9, mancano 10 giorni, e il centravanti non c'è ancora, quindi sappiamo che sono tre opzioni. Una è Suarez, sempre che lui vuole farsi dare tutti i soldi del primo anno dal Barcellona. Il Barcellona gli ha proposto una parte del primo anno. Poi ha il discorso del passaporto, che in condizioni normali impieghi un sacco di tempo per avere, magari possono provare a ottenere uno sconto di tempo, ma sarebbe veramente, come posso dirti, impopolare da questo punto di vista. Poi c'è Dzeko, che in questo momento mi sa più vicino alla Roma che alla Juventus, e Morata, per il quale l'Atletico di Madrid chiede una cifra accessibile, se vogliamo, in 5 rate, non un prestito, però ha il problema di Diego Costa, cioè non riesce a vendere Diego Costa, si ritrova solo con Morata, cioè è complessa la situazione. Ma del resto è stato l'ultimo passo della nostra copertina montata da Gianmarco Ferronato, poi ieri ha spiegato tante cose, ne parleremo tra qualche minuto anche con Marco Bellinazzo, presidente della Juventus e dell'ECA, in quella veste presidente dell'ECA, Andrea Agnelli. Ragazzi, i soldi sono finiti, mancheranno 4 miliardi di euro nei prossimi 2 anni, quasi tutti in capo ai club, e quindi è il momento dell'intelligenza, della solidarietà. Io devo dire che, sentendo le parole di Agnelli, mi è venuto in mente che di solidarietà, ad esempio, procuratori e giocatori ne hanno mostrata molto poca in questi mesi, no? Perché alla fine i tagli sono stati marginali e oggi si viaggia con rinnovi, gente che chiede 10, 12, 15 milioni di euro. Sì, verissimo, quello che dice è verissimo. Ricordiamo una cosa, che i conti erano già in rossissimo prima del Covid, e perché non dimentichiamo che per esempio la Juventus, per esempio, dovete ricapitalizzare 300 milioni di euro, poi ne ha persi 150 col Covid, quindi il Covid ha dato una mazzata a tutti pesantissima su conti, peraltro già su gestioni, diciamo, un pochino allegre da questo punto, diciamo allegre, perché vogliamo essere simpatici. Ma al di là di questo, il problema esiste, lo vediamo dal mercato che si sta sviluppando in questo momento o non si sta sviluppando in questo momento, ma del resto è anche giusto, perché se tu esci per strada ti rendi conto che la crisi tocca soprattutto la gente comune. Vorrei capire per quale motivo non dovrebbe toccare il calcio. Ai protagonisti del calcio, poi io vengo anche all'editoriale di questa mattina di Ivan sul Corriere dello Sport. È molto semplice e riguarda l'elasticità dei mercati, che adesso tiro fuori vecchi concetti di politica economica di quando studiavo economia all'università, oppure più mente il mercato immobiliare, che seguo perché guardo tutte le case, poi non ne compro nessuna, però le guardo tutte, nel senso che qui ci sia una crisi, cioè che quello che dice Agnelli sia vero è indiscutibile, basta guardare quanto prende al botteghino? 14%? Comunque il 14% non è poco, se tu perdi altri 6 mesi di stagione, faccio per dirti, già diventa il 7% che non recupererai mai, al di là del fatto che anche le televisioni ti chiedono lo sconto, gli sponsor ti chiedono lo sconto, eccetera eccetera. E però, a differenza di mercati come ad esempio quello azionario, che reagisce in tempo reale e in maniera certe volte addirittura esagerata alle suggestioni, alle indiscrezioni, ai rumors, qua invece il concetto è domanda e offerta. Quindi voglio dire, fino a quando non vanno dal giocatore X a dirgli guarda che è cambiato tutto e noi ti possiamo offrire il 30% in meno, e non ci vanno tutti, e nel frattempo altri non si presentano con l'offerta della vita, questa roba non cambia. No, ma dentro ci sono anche delle belle storie. Allora vengo a quello che ha scritto questa mattina Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: ci vuole coraggio, le casse sono vuote, il presente cupo, i nostri club, cito un passaggio centrale, invece di investire sui giovani scommettono sull'instant team e sugli over 30, e vengo lì. La realtà, io credo, è che siamo dentro una bolla che è scoppiata, in una bolla che cresce. Tu ad esempio anno dopo anno puoi decidere di valutare sempre di più i giocatori, ti salvi ad esempio con il meraviglioso meccanismo delle plusvalenze, e oggi è un'altra leva che viene meno, ed è il motivo per cui vediamo il mercato fermo. Oggi il Bayern ha detto che non spende soldi per Pesi, ce lo rimanda a Milano, problemi dell'Inter, no? Il Bayern, come tu sai, sta perdendo, però perderà per ogni partita non giocata in casa all'Allianz 6 milioni di euro. Fai il conto, moltiplicalo per cosa sono? Sono 20 squadre, se non sbaglio. Sono 18. 18 squadre. 150, esatto. Sono 150 e fai le cose. Esatto. Dai, hanno già fatto un'operazione. Il Bayern, oltretutto, negli ultimi 20 anni ha fatto 19 bilanci d'attivo. Il Bayern ha sempre pagato senza le banche, cioè con i soldi che aveva. È venuto a mancare la Germania, cioè l'ossigeno dei tedeschi, che era un mercato ricettivo, è venuto a mancare perché sono tutti in crisi anche loro. Quindi il discorso è molto semplice, è banale, tutti ti dicono prima vendiamo e poi compriamo, ma se non c'è nessuno che compra non certo. Vendi, è mancato l'effetto domino da questo punto di vista, quindi è un problema serio. Di solito facevo oggi, è molto semplice: cosa abbiamo vinto noi giocando con i vecchi negli ultimi 10 anni in Europa? Una benedetta mazza, ok? La famosa mazza. L'ultima volta nel 2010 il triplete dell'Inter, ok? Perfetto. Allora, perché non investire in un momento di grande crisi, invece di andare a prendere gli over, non 30, 31, 32, 33, 34, perché non investire sui giovani? L'altra sera io ho visto i due gol di Haaland e l'ho invidiato, cioè ho invidiato la Norvegia, ho invidiato chi utilizza questi giovani. Lascia stare Foden che ha le escort, però vedere Foden o Ansu Fati che prende il posto di Griezmann, pagato una cifra iperbolica, o di Dembélé, mezzo infortunato, mi fa respirare qualcosa di nuovo. Per cui la nazionale italiana è in contrapposizione al resto del sistema. No, perché poi se guardi la nazionale, un po' di aria pura la respiri anche qui, no? Di aria fresca. Merita un applauso, con la differenza però che Mancini, che è bravissimo, e gli faccio per l'ennesima volta i complimenti, perché da un certo punto di vista non me l'aspettavo che avesse un impatto così rapido. Sapevo che era bravo, ma nessuno poteva, credo, immaginare all'inizio un impatto così, così veloce, e soprattutto una filosofia così nuova e così bella. Però insomma, lui in qualche modo deve scegliere giocatori italiani. Le società possono prendere strade diverse, possono anche lasciarsi ingolosire dal famoso instant team, da tutto e subito. E onestamente non, cioè io non me la sento di biasimare, perché poi alla fine noi siamo anche quelli che poi il giorno dopo un'eliminazione in Champions o in Europa League, diciamo fallimento eccetera, facciamo i processi. Quindi poi alla fine ognuno sceglie che strada prendere. Infatti stiamo facendo processi da 9 anni, Pier, cioè sì, quello è un problema, che il calcio italiano cambia, abbia più strada, bisogno come cultura di coraggio. Io ho fatto un esempio, scusa, ti interrompo, poi ti lascio. Fatto un esempio: Alexis Sanchez, 32 anni a dicembre, gli hanno fatto un contratto di 3 anni che costerà 21 milioni, 42 milioni lordi, 42 milioni lordi all'Inter. E qualcosa meno perché ci sono gli sconti, ma comunque una bella botta. Comunque sono 21,7 milioni all'anno netti. È una terza scelta, cioè, perché non è la prima scelta dell'Inter, che è Lukaku, la seconda è Lautaro, la terza è lui. Alexis è bravissimo, per carità, però nel momento in cui sei anche in difficoltà, perché lo hai manifestato ripetutamente, lo hai anche dichiarato, ho visto ieri Zanetti, ma se parlavi con i loro operatori ti dicevano le stesse cose, cioè un minimo di attenzione. E poi il povero Esposito, se che tu ritirassi per non fargli fare il mondiale, se ne andrà in prestito. Secondo me una terza punta come Esposito ci può stare. C'è stato dei primi 5-6 mesi, abbiamo fatto l'Esposito che auguriamo tutto il meglio e fra un anno ovviamente avrà un anno in più, quindi sarà più sicuramente più forte, più maturo. Però insomma Conte nella prima parte della stagione ha avuto Esposito come terza punta, poi è sparito, ma io ti dico torna Perisic, è sparito perché torna Sanchez. No, io credo che allora dal punto di vista culturale io sono d'accordissimo, cioè noi siamo, ma qui il discorso potremmo addirittura allargarlo alla politica, all'economia, cioè questo non è un paese per giovani, questo lo sappiamo benissimo, cioè è un paese dove un 45enne presidente del consiglio, un 40enne viene considerato un giovanissimo, quindi da questo punto di vista siamo sicuramente per cultura diversi. Questo ci consola, paesi, Pier. No? Il famoso tweet di Mentana di qualche giorno fa sui 5 più ricchi d'Italia, anzi 4 più ricchi d'Italia versus i 4 più ricchi d'America, con una differenza anagrafica e anche di business imbarazzante, e quindi di influenza imbarazzante. La Silicon Valley non abita qui ed è un peccato, quindi sono perfettamente d'accordo su questo. Poi in assoluto, se andiamo nello specifico delle situazioni, secondo me ci sono mille distinguo da poter fare, cioè nel senso che poi alla fine quando Sanchez è entrato, io poi 3 anni magari non li avrei fatti, però voglio dire, quando Sanchez è entrato nella seconda parte della stagione dell'Inter ha dato qualcosa che prima non c'era, che probabilmente se ci fosse stato lui nella prima parte della stagione a fare rotazione senza quell'infortunio del 12 ottobre, rotazione di Lautaro e Lukaku, forse anche Lautaro e Lukaku avrebbero avuto un rendimento ancora superiore, o comunque sarebbe stata una maggiore armonia e qualche punto l'Inter non l'avrebbe perso. Però questo sulla filosofia sono d'accordo, non ragionando così non arriviamo da nessuna parte, a parte il fatto che è diverso. No, ragionando così, secondo me noi molte volte facciamo discorsi populistici e demagogici sui giovani, così, ma oggi che sei nella condizione di dire non ho i soldi, ma prova una strada diversa, ma fai un tentativo. Cioè l'altra sera abbiamo dato una lezione di calcio con la nazionale e ok, magari non pressavano, ci lasciavano giocare un po' di più, però ci siamo divertiti, è stato un bel vedere, sì, è stato davvero un bel vedere, grazie. Cioè, la sera prima Gio, sì, poi la saluto, vai. Hanno giocato in nazionale due che sono considerati esuberi, Florenzi e Biraghi. Sì, sì, ma la nazionale va evidentemente in controtendenza rispetto al come si sta muovendo la Serie A negli ultimi anni, e anche se ci limitiamo diciamo ai due anni di Mancini. Bravi costano, sì. I giovani bravi costano. Ma certo, insomma, costano anche gli altri. Ronaldo sta cercando parte. Costano anche gli altri. Ciao Ivan. Ciao Ivan Zazzaroli. No, costano anche gli altri. Saluto Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Eccomi, ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Costano anche gli altri. Domenica con Marco avevamo un po' anticipato il tema, se ti ricorderai, Pier, avevamo fatto un po' i conti in tasca ai club italiani. Poi ieri le parole di Andrea Agnelli hanno in un certo senso spiegato al mondo che cosa significa questa crisi e anche dando una chiave di lettura a quello che sta succedendo o non succedendo in un calciomercato. Poi noi ne parleremo anche dopo la borsa, però ogni tanto sembra davvero di raccontare delle storie che provengono dalla luna e ieri abbiamo capito i contorni di questo problema. Io sono ben poco sorpreso, Marco, da quello che ha detto ieri Agnelli e ho l'impressione che sia anche andato leggero. Beh, sai, le contrazioni dei ricavi sono evidenti su tutti i fronti e anche quello che è accaduto in materia di diritti TV in Italia è stato, come dire, un elemento di distonia rispetto invece a quello che stava accadendo in Premier e in Bundesliga, dove c'erano questi forti sconti concessi dalle TV alle TV dalle due leghe. Lo stesso farà la UEFA, perché lo spettacolo è stato diverso e perché ora si punta soprattutto a tenere i contratti che c'erano nel passato, non cercare di migliorarli. Questo è il dato più come dire impressionante. In Italia sappiamo che c'è addirittura una controversia legale tra la Lega e il suo principale partner negli ultimi 10 anni sull'ultima rata, vedremo come andrà a finire, però questo è un segnale ancora più grave in Italia, perché quella è la principale voce di ricavo dei club italiani, laddove poi a questo aggiungi gli stati chiusi, gli sponsor che cercano vie di fuga. Beh, il quadro poi che ha fatto Andrea Agnelli è assolutamente forse anche, come dire, promettente, perché se fossero solo 2 miliardi all'anno due anni in tutta Europa. Le contrazioni in tutta Europa, io ho l'impressione che ci vorranno almeno 5 anni per tornare alla normalità dell'industria del calcio europeo. Sì, qualcosa si intravede già. Oggi tra l'altro viene indicato da tutti i giornali come un giorno che potrebbe portare una rivoluzione epocale, cosa magari poco interessante per il grande pubblico, ma insomma la decisione se far entrare o no i fondi dentro la Serie A, dentro la Lega, è qualcosa che potrebbe cambiare un po' questo quadro, dare un po' di ossigeno almeno nell'immediato, no Marco? Ma sai, lì al di là di tutte le tecnicalità che magari appunto interessano poco ai tifosi, il tema vero è se i presidenti di Serie A sono disposti a prendere le chiavi del giocattolo e a darlo in altre mani in cambio di 1,3 miliardi e 4 che porta ossigeno alle casse dei club nell'immediato, ma cambia un po' tutte le regole di gioco. Lo fanno o no? Com'è che va a finire? Se dovessi fare un pronostico, diciamo, di solito quando si arriva a questi momenti epocali in Lega si comincia a dire un sì condizionato e si dà mandato al presidente di continuare a trattare, a verificare, ponendo diciamo delle regole che la controparte dovrebbe rispettare, almeno così è andato nelle tutte le ultime più importanti trattative, per cui diciamo potrebbe esserci poco di epocale insomma nella decisione di oggi. È vero anche che siamo in una situazione in cui tantissimi club, anche quelli di prima fascia, hanno bisogno di liquidità e quindi diciamo questo 1,3 miliardi potrebbe far gola, anche se appunto questo 1,3 miliardi e 4 miliardi, insomma quello che sarà, poi andrebbe ai 20 club che attualmente fanno parte della Serie A. E già qualcuno dal piano di sotto, certo, che si chiama Galliani, ha bussato stamattina dicendo sì, ma poi se noi arriviamo l'anno prossimo in Serie A cosa ci date insomma. Quindi questi poi sono alla fine dei conti i temi che si metterà sul tavolo oggi all'Hotel Hilton di Milano nel dover assumere questa decisione. Ma hai capito, abbiamo una risposta da dare alla domanda di Ivan Zazzaroni, cioè perché in Italia si continua anche in una situazione così a riempire di soldi ultra trentenni con contratti pesantissimi, invece è vero che oggi è il giorno di Tonali, poi ne parliamo, quindi diciamo c'è anche uno dei migliori talenti che si veste di rossonero, però in linea di massima la tendenza è quella. Sai, perché innanzitutto questi giocatori magari sono più pronti dei giovani, quindi a quegli allenatori piacciono, di più vorrebbero avere giocatori diciamo da poter spendere nell'immediato, poi perché costano un po' meno col decreto crescita, pensiamo appunto al cambio potenziale tra Higuain e Suarez. Di fatto con il decreto crescita, a parità di stipendio e senza con diciamo l'ammortamento del cartellino, perché verrebbe di fatto gratis Suarez alla Juventus, e Suarez costerebbe 12-13 milioni, Higuain ne costa 30 alla Juve in questo momento. Quindi diciamo c'è anche la possibilità, facendo appunto delle buone operazioni in entrata e uscita, di abbassare il monte ingaggi. Però diciamo che lo scontro fiscale e la volontà degli allenatori di avere giocatori pronti credo che prevalgano ancora sulla opportunità, che a mio avviso sarebbe invece da sfruttare, di lanciare giocatori più giovani in un momento di crisi in cui magari i tifosi sono anche un po' meno esigenti, ecco, rispetto alla rosa che va a comporre ogni singola squadra, almeno quella di vertice. Vai Pier. No, ma ragazzi, il tema è più antico del mondo, è appunto riguarda la società italiana, riguarda i risultati, tutto e subito, ed è anche un tema di comunicazione, nel senso che poi tante volte mi ricordo di aver fatto questo discorso, ad esempio per quanto riguarda il Milan, proprio per quello che ha vinto, parlo di 6-7 anni fa, oggi è un po' più difficile fare questo ragionamento, ma proprio per quello che aveva vinto in quel momento lì, era la società ideale per poter fare un ragionamento e per poterlo anche comunicare ai tifosi, del tipo vogliamo essere competitivi fra 3 anni, fra 5 anni, facciamo la squadra più forte per dominare il futuro, dopo che hai la marcia piena, perché hai vinto così tanto, lo puoi fare. Da noi è complicato, ragazzi, da noi è complicato, il fatto proprio di cultura, però poi non me la sento di biasimare Conte che vuole Sanchez, faccio per dire l'esempio che facevamo prima con Zazzaroni, credo che sia un tema culturale, credo anche che poi ci siano anche aspetti anche pratici, perché appunto poi i giovani forti, ribadisco, costano, cioè paradossalmente su Suarez lo vai a prendere gratis, certo ha un ingaggio pazzesco, e magari invece Tonali lo paghi tanto. Quindi, sì, piccolo inciso, Suarez ti fa risparmiare su Higuain nella condizione in cui tu vendessi Higuain, altrimenti parte di quei costi te li trascini con buone uscite, minusvalenze e così via, perché ovvio. Lo stanno segnalando da casa, è giusto, 3-4-9-3-8-6-6-6-6, e quindi la precisazione la facciamo senza nessun problema. Lo stavo pensando, l'avrei segnalato anche prima. Quindi voglio dire, fa parte ovviamente del tema, però in generale ci sia in questo momento la condizione per andare ad attrarre dei talenti che vengono da fuori grazie al decreto crescita. È un dato oggettivo. Va bene, allora c'è la borsa, saluto Marco Bellinazzo, ciao Marco, grazie. Ciao ragazzi. Ci sentiamo nei prossimi giorni. La borsa, due minuti, poi torniamo, parliamo di calciomercato, di queste storie lunari. Questa condizione dove ci sono pochi soldi, la strategia migliore è stata quella di Maldini del Milan. Infatti il Milan ha fatto, secondo me, delle operazioni veramente interessanti, dirà la sua la prossima stagione. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. E buongiorno a tutti, sono Paolo da Milano. Da interista sono disperato, ma perché Tonali no? Perché Tonali no? Faremo una squadra di 35 anni, tra un anno magari vinceremo anche qualcosa e poi la squadra sarà quasi completamente da rifare. Conte ringrazierà e andrà via, anche se Conte mi piace, ma perché Tonali no? Beh, perché Tonali, stavamo guardando le immagini proprio in questo momento, ha finito le visite mediche con il Milan, c'era fuori anche un gruppetto di tifosi, carissimo Pierre, quasi tutti con la mascherina, insomma, fuori dalla clinica a festeggiare. Si può fare meglio, ma ci diamo un 5,5. Saluto Dario Massara, direttamente dalla squadra di calciomercato L'Originale su Sky, tutte le sere ore 23, ciao Dario. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Adesso parliamo di Tonali. Bene Pier. Sta bene, sì. Bene. No, adesso però vi devo dare una notizia che è stata battuta proprio in questo istante dall'Ansa, con tanto di più. Allora, svolta storica per la Lega Serie A, ne parlavamo due minuti fa. Secondo quanto appreso dall'Ansa, i club hanno votato all'unanimità il via libera alla creazione della media company con un conseguente ingresso dei fondi nella nuova società. Era il tema che affrontavamo prima con Marco Bellinazzo, che torneremo a disturbare domani. Pare, da quello che scrive l'Ansa, che ci sia stato il voto all'unanimità e quindi che insomma sia destinato a cambiare qualcosa, oltre che ad arrivare qualche soldo, che in questo momento non fa male al calcio italiano, anche perché, Dario, stiamo raccontando un calciomercato, e quindi torniamo a Tonali, a tutte le altre storie veramente asfitti come mai è stato in passato. Sì, onestamente per ora abbastanza bloccato, quando qualsiasi operatore che senti ti dice non si muove nulla, non ci sono soldi, è ancora presto, e quindi come ogni mercato e quest'anno un po' più del solito ci ridurremo a raccontare gli affari negli ultimissimi giorni, nelle ultimissime ore del mercato, anche perché poi ci sarà il campionato e quindi ci saranno delle valutazioni fatte in base a stato di forma, infortuni e a come si sono adattati soprattutto i nuovi allenatori alla rosa che hanno. Al momento però si muove davvero molto molto poco, e se posso rispondere invece al messaggio audio che avete sentito, perché Tonali non all'Inter, semplicemente perché l'Inter in questo momento non può spendere, e quindi squadre di 35 anni in questo momento sì, un instant team che possa competere ai massimi livelli in questa stagione, e poi ci rivediamo l'anno prossimo per un altro tipo di mercato. Sì, con tutti i giudizi che stiamo dando dall'inizio di questa trasmissione, a chi piace, a chi no, però questa oggi è la realtà. Abbiamo detto anche, tra le mille cose, che il Bayern rispedisce a Milano Perisic, sì. A proposito di difficoltà, no Dario, di fare cose. Sì, era una cosa abbastanza annunciata, non era nelle grazie di Flick, almeno non nei programmi futuri di Flick, di Van Perisic, e quindi si sentiva già nell'aria il fatto che non potesse essere riscattato, ma è un giocatore in uscita all'Inter, perché nemmeno Conte lo considera al momento un rinforzo tra virgolette, non come Nainggolan che comunque qualche possibilità di rimanere ce l'ha. Perisic invece è in uscita all'Inter, aspetta offerte. Ma voi ve lo terreste, Pier? Ma no, io sono un giocatore che per come intende il calcio Conte, per il modulo di Conte, sia veramente difficile da inserire. È un giocatore che un mercato ce l'ha, un'utilità ce l'ha. Ci sono tante squadre alle quali magari un'ottica un po' da instantivo, come dicevamo prima, potrebbe pure tornare utile. Non credo che abbia molte possibilità all'Inter, cioè sarei veramente sorpreso. Vorrebbe dire in qualche modo che non sono riusciti a piazzarlo, perché il giudizio su di lui, ripeto, secondo me di natura unicamente tattica, assolutamente tattica, però è stato preso. Sì, è stato netto, mentre mi pare di aver capito, Dario, che Nainggolan a questo punto invece va considerato arruolabile e forse arruolato. Sì, dobbiamo capire adesso come si intrecceranno le giornate a Piano Gentile tra lui e Conte, visto che di fatto iniziano a lavorare adesso. Per quello che cerca Conte, per quelle che sono le caratteristiche che vuole Conte soprattutto a centrocampo, è per questo che l'Inter è vicino a Vidal, perché ha bisogno di leadership, di personalità, di giocatori che hanno già esperienza. Lui ha, diciamo, tante di queste caratteristiche, poi magari pecca altrove. Un Nainggolan che possa essere in forma, perché al netto degli infortuni l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, è sereno fuori dal campo, io penso che possa essere una buona risorsa. No, ma di più, io penso che Conte, anche nel suo addio alla Juve, l'ho detto anche già altre volte, a Conte Nainggolan piaceva, Conte sì, Nainggolan sì, in generale in assoluto piaceva, ed era un giocatore che avrebbe voluto la Juve, ed è uno di quei giocatori dei quali si è lamentato che non fossero venuti alla Juve quando poi passò alla Roma. Quindi io credo che le caratteristiche sono quelle che gli piacciono. Del resto, insomma, fra Nainggolan, ha detto Dario, insomma, è abbastanza ovvio, Nainggolan è un quasi Vidal, nel senso che le caratteristiche in termini proprio di approccio, di personalità, di fisicità, sono quelle. Verrebbe quasi da chiedere se alla fine non è uno di troppo, perché anche Barella poi non è tanto diverso come giocatore. Dovessero esserci tutti e due, Vidal e Nainggolan, intendo. Cioè, qualcuno di troppo sicuramente in quel momento ci sarebbe, anche perché dobbiamo considerare anche quelli che già ci sono. Brozovic, Gagliardini, è andato via Borca, ma dovreste arrivare tutti e due, o meglio, Nainggolan già c'è. Quando arriverà Vidal, il reparto centrale sarebbe bello pieno. Diciamo una cosa, che credendo ciecamente in Nainggolan, con tutte le incognite dovute essenzialmente all'aspetto infortuni, perché comunque è stato abbastanza in difficoltà, Nainggolan poteva essere una soluzione sostitutiva di Vidal per poter indirizzare poi quel tipo di investimento da qualche altra parte. Questo sì, sicuramente sono due giocatori molto, ripeto, molto simili. Poi Vidal ha in questo momento in generale ha una dimensione superiore rispetto a Nainggolan, ma il Nainggolan in grandi condizioni, motivato e fisicamente a posto, un giocatore che non è così distante. No, appunto. Altro tema, come cambia, se cambia, Dario, il mercato della Roma dopo l'infortunio di Zaniolo? In questo momento non cambia, ma soltanto perché nel disegno tattico di Fonseca, in quei due posti lì che potevano essere occupati da Zaniolo, ovvero quei due trequartisti alle spalle della punta, comunque ci sono ancora tanti giocatori. Ci sono gli esterni che non sono ancora usciti, che possono essere riadattati, ovvero Under Clivers, c'è Mkhitaryan, c'è Pellegrini, c'è Villar, quindi insomma di certo non si crea un buco, se non chiaramente tentativo, visto il talento di Zaniolo. Al momento la Roma non pensa di sostituirlo, sono pochi mesi, speriamo gli ultimi, in cui dovrà fermarsi per questo tipo di infortuni. Ma significa che resta Dzeko? Al momento non ci sono segnali opposti. Lui, al di là delle fotografie che mette su Instagram e dei messaggi della moglie, non ha mai al momento dato segnali di voler andare via. Alla Roma sono ben contenti di tenerlo, anche perché la nuova proprietà vorrebbe ripartire da personaggi così forti che possono dare anche un'immagine alla Roma. Quindi ad oggi Dzeko mi sembra abbastanza fermo. Ecco, io questo credo che che l'infortunio di Zaniolo si intrecci con Dzeko non dal punto di vista del ruolo, che ovviamente è diverso, e tutto quello che ha detto Dario è sacrosanto. Cioè, nella drammaticità dell'infortunio di Zaniolo, l'unica piccola consolazione è che la Roma in quel ruolo lì veramente ha abbondanza. Quindi è chiaro che Zaniolo, quando è in forma e col talento che ha, è quasi unico, no, in prospettiva, però è ovvio che in quel ruolo lì hai delle soluzioni. Diverso sarebbe stato in difesa o in altri reparti. Quindi, però dal punto di vista, secondo me, simbolico, dopo una botta come quella di ieri, ovviamente dovuta anche alla sfortuna dell'infortunio, io da Roma che cede Dzeko nelle prossime ore faccio un po' più fatica a vederla. Poi nel mercato si vede tutto, il contrario di tutto, quindi per carità. Però insomma credo che sia difficile, sia ancora più difficile in questo momento, cioè, che si liberi del capitano. Beh, insomma, comunque voglio dire, c'è anche un aspetto, se vuoi, mediatico, di comunicazione. È appena arrivato un nuovo presidente, anche se per ora si è visto poco, però insomma ha parlato di un progetto di un certo tipo. Dzeko e Zaniolo erano probabilmente i due giocatori, assieme a Pellegrini, di maggiore allure, no? Di maggiore fascino anche in prospettiva. Quindi dopo l'infortunio di Zaniolo, se perdi pure Dzeko, sì, diventa poi difficile, diventa un po' più complicato da spiegare. Allora abbiamo il traffico, grazie Dario Massara. Ciao Dario. Grazie a voi, ciao. Ciao, grazie. Alla prossima. Abbiamo il traffico, dunque la notizia l'abbiamo data. Secondo quanto ha scritto l'ANSA, i club di Serie A, tutti e 20 all'unanimità, hanno votato favorevolmente per l'ingresso dei fondi nella nuova società Media Company che verrà creata per gestire i diritti TV e commerciali. Il che significa che arriveranno subito circa 1,5 miliardi di euro, soldi che servono, questo l'abbiamo detto, e poi vedremo invece che cosa accadrà a tutto il resto che riguarda la parte politica, commerciale del calcio italiano. Oggi c'era grande spazio sui giornali. Ci fermiamo, il traffico, poi torniamo. Buongiorno, scusate, l'Inter non può spendere, ok? Ma la domanda è, il Milan può spendere? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Invece per Gigio è cominciata una trattativa o se non se ne è mai parlato? Perché scade tra un anno il contratto, meno anzi. Sì, ma io di Gigio non ho parlato, non ho voluto parlare, non voglio neanche parlare perché so quanto sia sensibile questa questione con i tifosi e con tutti, e non è il momento ancora di parlare di questa, siamo altre priorità, anche il club ha altre priorità e quindi dobbiamo vedere. E comunque la volontà di Gigio è sempre stata quella di voler rimanere, no? Anche di non andare via a zero. Ma vedremo, non è... Ti ho detto, non è questione adesso di parlare di Gigi Donnarumma. Allora, carissimo Pier, tu sai che noi siamo innamorati del conto alla rovescia, vero? Ci ha provato Di Marzio, quando Gianluca, comunque la volontà è rimanere, vero? Sì, ma sai di quando è questa intervista? Sì, quando è? 23 agosto. Comincia a essere passato quasi un mesetto. Nulla. No, non è cambiato nulla, nel senso che però in mezzo il rinnovo di Ibrahimovic è arrivato, che era la priorità in quel momento. Però c'è una cosa secondo me invece decisiva, il fatto è, adesso è stato bene a dire che era il 23 agosto, se no poteva sembrare più recente, che nel frattempo il Milan doveva risolvere la questione Ibrahimovic e comunque l'ha fatto. Risolta. Poi, certo, l'ha fatto. Poi ha preso Tonali, già che c'era, ottima cosa. Tonali, l'ha preso lì, insomma, sta facendo delle cose, quindi io non è che sottovaluto il tempo, non è che no, comunque sono tempo, 145 però... giorni oggi, sì, vabbè, ma adesso basta con sto cartello, dai. Scherzo, lo diciamo per chi si mettesse soltanto adesso all'ascolto, ai diffusori. È un tormentone che facciamo col dottor Capuano da giorni. Certo. Io sono convinto, allora, io sono convinto. Tu sei convinto che resta? Io sono convinto che Donnarumma, allora Raiola, diciamo che fra della categoria dei procuratori è uno bravissimo, però abbastanza col pelo sullo stomaco, no? Quindi è uno di quelli che se c'è un'opportunità spinge per cogliere l'opportunità. Poi c'è il calciatore che sta diventando un uomo e che oggi si trova un Milan, sicuramente anche rispetto al passato recente, con delle prospettive un po' più interessanti, cioè, rispetto e quindi agli tu pensi che alla fine tra l'amore per la maglia e il fatto di giocare in un Milan più Milan logico lo farà, rispetto a prima Donnarumma possa rimanere. Sì, penso di sì, Aspetta che chiedo a Mario Ielpo se la pensa come te o se come me è un po' più scettico. Mario, ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, ciao. Tutto bene? Tutto bene, tornato dalle ferie, sì, tutto a posto. Purtroppo si lavora. Hai pochi minuti perché hai detto che hai poi un impegno, quindi ti lasciamo 5 minuti e ti lasciamo. No, ma tu come sei sul fronte Donnarumma? Scettico o fiducioso? Che rimanga? Sì. Ma io in più occasioni ho detto che insomma... perché Donnarumma rimanga al Milan, è necessario che il Milan torni a essere uno dei club importanti del mondo, perché lui ha uno stipendio e anche una qualità da club più importante del mondo, quindi se no poi dopo diventa una forzatura la cosa, non può reggersi a lungo. Però più tempo passa e più queste strade, secondo me, che questi binari che sembravano paralleli e che non si potevano mai avvicinare, invece secondo me sono rette che cominciano ad avvicinarsi, perché Milan sta migliorando sia come qualità che come, insomma, dal punto di vista di solidità economica, quindi insomma, io non sarei troppo scettico. Su questo posso aggiungere che insomma, da quanto mi risulta, i rapporti tra il Milan e il Raiola sono ottimi. Sei visto anche per il contratto di Ibra. Gli attriti che ci vogliono. No, in generale. No, nel senso, adesso io scherzo, generale, però lui gli ha detto 7, loro alla fine hanno detto 7 e quindi sono andati d'amore d'accordo. Lasciamo stare le trattative, le cose dove quando si fa un contratto di solito, insomma, secondo me nessuno è vincente, sul contenti tutti e due. No, ma poi ognuno ha il suo ruolo. Non c'hanno la pistola puntata alla tempia nessuno dei due, quindi quando lo firmano sono contenti tutti e due. Però voglio dire, per quanto so, proprio i rapporti personali sono ottimi, quindi se c'è la possibilità che rimanga viene secondo me, insomma, esplorata fino agli ultimi termini. A questo posso aggiungere che se all'inizio, come dire, Donnarumma mi sembrava un talento enorme, però poi sul resto bisognava vedere insomma un po' come cresceva. Ecco, adesso è veramente un leader e si sta comportando, se mi posso permettere di giudicarlo, in una maniera incredibile, anche come milanista. Cioè, lui si sta comportando veramente bene, quindi credo che difficilmente, cioè, c'è un'immedesimazione, insomma, adesso scusate l'impiccio. Tra il Milan e lui, quindi mi sembra che interrompe il rapporto deve intervenire qualcosa di veramente importante poi nella vita. Sono d'accordo, io credo che la gestione del contratto precedente, la trattativa, le polemiche non era stata fatta dal punto di vista, mi ricordo che ne parlavamo proprio in radio, dal punto di vista della comunicazione nella maniera più corretta, premesso che poi uno nella vita può tranquillamente fare tutti i ragionamenti e può puntare legittimamente al conto in banca, e ci mancherebbe altro, non c'è proprio questa radio di Confindustria, figurati se facciamo gli snob o i moralisti. Però dal punto di vista della comunicazione quella vicenda lì non era stata gestita benissimo. Adesso sono delle tutte cose che dice Mario, cioè secondo me il Donnarumma è sempre più leader, il Milan sta crescendo, i rapporti con Raiola sono ottimi, forse aver anche accontentato, non lo so perché ripeto sono dinamiche, però insomma aver accontentato su questa vicenda Ibra può essere stato anche un modo per facilitare la trattativa su Donnarumma, e in assoluto io, che non conto niente, a Donnarumma con un Milan così glielo suggerivo, non è che deve ascoltarsi, ma giustamente ne fa la stessa sua, però voglio dire, secondo me faceva bene a rimanere quando è stato l'altro rinnovo del contratto 3 stati fa, adesso ha maggior ragione, nel senso che lui ha motivi per scommettere su se stesso dentro poi, il Milan, se nei prossimi e non anni fuori. A un certo punto non dovesse esserci quel top team di cui parla Mario, è ovvio che Donnarumma, per quella che è la sua qualità, può anche guardarsi attorno, ma in questo momento la troverei abbastanza stonata la cosa, troverei abbastanza stonata, a meno che non possa essere uno strumento insieme per fare cassa, però lo dovrebbe esserci un rinnovo. Allora, potrebbe esserci anche il ragionamento che si fa un sacrificio sul portiere perché si vuole crescere, incassare tanti soldi e reinvestirli, ma mi sembra abbastanza fantacalcio. Io penso che lui rimarrà e penso che in questo momento ci sono tutte le condizioni, capisco il countdown, ma ripeto, ha ragione Delegatti, cioè il countdown di Ibra era, adesso è meno 14. Sì, sì, qui, qui siamo a, a meno 145. Quasi naviga, c'è ancora tempo. Questo vale per tutto il mercato. Ma tanto sai che vado avanti, Pier, perché siccome Donnarumma è uno dei massimi talenti e non più solo potenziali del calcio italiano, che sia a meno di 6 mesi di fatto dalla possibilità di liberarsi, sì, a zero, certo, con certo, quel procuratore lì, e quindi insomma con tutto quello che si porta dietro il nome di Mino Raiola, e insomma secondo me è un tema non da poco. Fammi salutare Mario Ielpo. Ciao Mario, grazie, alla prossima. Ciao ragazzi, un abbraccio a ciao, tutti. Ciao, ciao Mario. Ciao. Nino da Bergamo. Nino, pronto? Sì, vai. Mi è data la parola? Certo. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te. Desideravo fare due domande. Una era questa: perché anni fa Locatelli fu venduto al Sassuolo dal Milan? Le ragioni mi sfuggono, non le conosco. La seconda cosa: cosa osta al Milan a riacquistare Locatelli dal Sassuolo, in considerazione dell'età, in considerazione, ecco, in considerazione anche del fatto che Bakayoko non ha fatto un grosso successo l'anno passato nel Milan, e d'altronde poi il costo tra i due è competitivo. Nino, la mia risposta rapida è questa: grazie a te, sì, che fu venduto perché nel 2018 a tutti e non solo al Milan una cessione fatta su un giovane erano soldi importanti, e tra l'altro in quel momento Locatelli non era centrale nel Milan, non era neanche titolare, e che adesso il Milan lo possa riprendere, può succedere tutto. Il Milan sta presentando Tonali in questi minuti, sì, ma Locatelli costa 40 milioni in questo momento. No, in questo momento comprare Locatelli significa comprare Tesla al Nasdaq 15 giorni fa. Ecco. Per comprarla sui massimi del mercato, sopra i $500. Di solito non è consigliato. Barisoni se mi sente adesso impazzisce, gode come un riccio. Però voglio dire, allora, Locatelli è chiaro che col senno di poi è stato un errore, perché è un giocatore che è cresciuto tanto, è stato venduto, ma il mondo del calcio è pieno di errori. Perché l'Inter ha lasciato perdere Zaniolo? Perché il Milan ha mollato Pirlo? E non è che quando il Milan ha mollato Pirlo ci sono stati i caroselli in piazza per protestare. In quel momento sembrava che fosse ormai un giocatore logoro, e poi invece la Juve ha fatto quello che ha fatto. Cioè si vince, cioè, sono cose che capitano. Sono cose di mercato. In questo momento, francamente, con i prezzi, con la quotazione che giustamente ha Locatelli e con la forza del centrocampo del Milan, è una suggestione bella, ma non credo che... Non è un tema d'attualità. Abbiamo finito, Pier. Ciao, a domani. Ciao. A domani, dopo il GR delle 14. Io ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento, lo ripeto, domani dopo il GR delle 14. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti!